Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, siamo a Castellana. Questo è il titolo: caro Renzo Bossi, vieni al sud in grotta, il sindaco invita il figlio del senatore, così dice il sottotitolo, a visitare appunto le grotte di Castellana, tra le più famose al mondo. E come la vedi questa notizia? Ma innanzitutto direi che trovarsi da soli in una grotta con Renzo Bossi è una cosa un po' inquietante, insomma, che io non farei particolarmente volentieri, però ma quello da questione poi magari, ma secondo me tutta la famiglia Bossi utilizza questa questione del federalismo e della secessione per andare in vacanza gratuitamente, perché loro probabilmente dicono no, noi vogliamo stare al nord, il sud non ci interessa, così i sindaci dei paesi del sud chiamano la famiglia Bossi e dicono no, guardate che il sud invece è bello, è da visitare, e li invitano. E quindi loro vanno a fare le vacanze gratis probabilmente, quindi secondo me tutta questa storia della Lega è nata per permettere alla famiglia Bossi di fare le vacanze gratis al sud, come se dicessi le Seychelles, per dire non mi piacciono, non voglio assolutamente avere a che fare con le Seychelles, poi mi chiama il governatore delle Seychelles, il presidente, mi dice Vanera venga invece a visitare le Seychelles che sono bellissime, lo ospitiamo noi. Quindi secondo me c'è questa chiave di lettura che io credo sia realistica. Una nuova visione politica, ma sai che potrebbe avere anche il suo seguito, in effetti. Cambiamo completamente zona, al secolo XIX, e siamo in provincia di Alessandria, un piccolo paesino, si chiama Stazzano. Questo è il titolo: un paese ostaggio del boa nigno, un serpente fugge dalla sua teca e terrorizza la gente di Stazzano, piccolo borgo, c'è un boa in fuga, la gente non esce più di casa perché ha paura. Ecco, e poi ci si lamenta se c'è la crisi. Perché c'è la crisi? Perché poi loro stanno in casa, le persone di Stazzano stanno in casa e non consumano più, il PIL crolla e così c'è la crisi. Invece inviterei tutte le persone di questo paese a uscire senza preoccuparsi troppo di questo povero boa che non è velenoso, non fa grandi danni e in più quando arriva si sente grazie al suo caratteristico rumore, il boato. Bravo, ok. Tra l'altro l'articolo dice che il proprietario del boa è andato in malattia perché ha troppo stress, è un po' il dispiacere, un po' lo stress per questa. Si rende conto che sta facendo crollare l'economia locale, insomma, proprio perché non uscendo più di casa non consumano più i suoi concittadini, quindi sarà uno dei responsabili della crisi che diventerà sempre più grave. Il Gazzettino, due notizie invece che entrambe riguardano un po' le forze dell'ordine. La prima, siamo alla Riviera del Brenta, a Fiesso d'Artico, e rissa tra donne davanti a un pub, carabiniere ferito. Si stavano menando, sono arrivate le forze dell'ordine e queste donne hanno menato anche i carabinieri, insomma una rissa in corsa. E a questa ti leggo ciò che è successo a Spinea, il titolo: fa le corna ai carabinieri, arrestato. Ecco, e questo secondo me è lo scarto preciso che c'è fra la realtà e la fiction. Quando si vedono le fiction, i carabinieri sono tutti ex modelli, ex modelle, tutti si vogliono accoppiare con loro, vogliono bene questi carabinieri che appunto sono ben voluti ovunque. Invece tu poi vedi nella realtà questi poveri carabinieri che arrivano per sedare una rissa di donne e vengono picchiati, poi passano per strada e gli fanno le corna. Quindi secondo me questa è l'esatta differenza che c'è fra la realtà e la rappresentazione. Peraltro devo dire che mi sembra eccessivo poi arrestare una persona perché fa le corna ai carabinieri. Io utilizzerei semplicemente la legge del contrappasso, farei diventare carabiniere per un periodo quello che ha fatto le corna per subire a sua volta quello che ha fatto lui.